Storielle. Storiacce. Di Roberta Giordano. Se non si è del parere del tuttologo dotto, del secchione che parla come un libro stampato, lo si bolla in sordina a un cervello stracotto. Ma che gaia scemenza, è un somaro marchiato. Eccoci qua, intanto incominciamo dal somaro marchiato, ma da questa voce bella, divertente, da questa ballata ironica, per cominciare un po' a entrare nel personaggio. In realtà, già un indizio ve lo do, non è un cantante, però la musica gli è molto vicina e forse ha iniziato addirittura dalla musica prima che da tutto il resto. Però l'ospite di oggi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, come al solito dovrà fare un identikit minimo di se stesso attraverso tre aggettivi. Vediamo un po' che cosa tira fuori. Una domanda così all'improvviso, ma io partirei da un aggettivo, il primo che mi viene è sobrio. Credo di essere piuttosto sobrio, nel senso che ho la vaga certezza di avere una vaga percezione piuttosto reale di quanto io possa rendere o non. Sobrio, dici? Io col tuo eloquio incontenibile questa cosa la vedo un po'. Tu avresti pensato a un bastardo, a una roba del genere, un aggettivo di questa natura. Sobrio, uno un po' più morigerato, misurato, non mi sembri così. No, sobrio, ma anche nel, cioè, anche usando il badile e la clava, però anche lì il tratto della sobrietà, sì, quantomeno cerco di. Quindi sobrio. E il secondo aggettivo? Curioso, si addice ad un artista, insomma, no? E ci vuole un terzo. Beh, artista è un sostantivo e mi sembra piuttosto anche imbarazzante. Impegnativo, molto impegnativo. E un terzo, proprio per concludere il percorso del numero perfetto, è incostante, incoerente. Nel senso che sono pronto a cambiare idea di qui a 30 secondi. Io credo che la coerenza non sia assolutamente un valore. Tutti quelli che ostentano coerenza, personalmente e molto immodestamente, ritengo che la coerenza non sia per nulla un valore. Perché potrei farti... Quindi rivalutiamo l'incoerenza. No, assolutamente. Io ti posso citare a modello di grandi coerenti Stalin e Hitler, che non mi sembrano dei grandi... erano molto coerenti, ma è questo per dire che la coerenza, secondo me, non è un valore. Comunque, no, in quei casi estremi, diciamo... Però io ti ho seguito un po' nel tuo percorso, magari più recente, insomma, e a me è sembrato che ci fosse una certa coerenza nel tuo modo di essere Alberto Patrucco, ecco. Che è appunto un non essere, no? E che tu bastoni parecchio anche sull'incongruenza, no, sull'incoerenza. Sì. Amo, no? Amo e mi piace la comicità fatta di Badile Piccone, non certo di più, ma non amo. Non la mandi a dire, diciamo. Ma no, ma perché credo che insomma sia necessario, soprattutto in questi tempi, esercitare o quantomeno suggerire il profilo di una risata liberatoria e non gratificante. Mi piace che chi ascolta le mie inutilità, le mie facezie, le mie fesserie, rida in modo liberatorio e non perché è gratificato dal fatto di sentirsi più intelligente di me. Allora, per dire, facciamola breve, come dicono gli stitici, nel senso che il percorso è questo. Sono cresciuto in un tempo che se il pubblico ti chiudeva una battuta vuol dire che tu non eri capace, non eri adatto, che era, cioè, se ti anticipava vuol dire che eri prevedibile, perché la comicità, secondo me, quindi secondo poco, è l'essere imprevedibili, sorprenderti, spiazzanti. Questo è l'essere comico, se no si è più ridicoli che comici, no? Però spieghiamo, Alberto Patrucco, che ti ho introdotto con questa canzone che si intitola Chi non la pensa come noi, che è il titolo del tuo CD d'esordio, perché tu, appunto, dicevo, sei un cantante, sei un attore comico di grande livello, ma abbiamo capito che invece canti molto molto bene, c'è la tua voce profonda, un po' graffiata dal fumo, che resta uno dei tuoi vizi, se ben ma certo, ricordo. Questa è una ginnastica, ecco, che io esercito. Però, diciamo, l'epilogo per il momento della tua storia è questo CD in cui tu hai voluto incontrare Brassens, che è uno dei grandi, forse considerato uno dei più grandi cantautori francesi, poeta francese del Novecento. No, come mai ti è venuta questa esigenza dopo tanta comicità? Comunque Brassens è caustico. È proprio molto per ironico, il fatto di quell'incoerenza che ti dicevo prima, cioè nel senso che non mi piace stare fermo sulle mie posizioni. Il monologo va bene, ne abbiamo fatti, ne abbiamo raccontati. Che è la tua specialità, no? Sì, Però secondo me è producente andare avanti per darsi delle emozioni personali, cioè il fatto di essere appunto suscettibile a qualche sbaglio, a qualche intoppo, a qualche inciampo. Ecco, mi piacciono questi scavalchi, questi, quindi metterti un po' alla prova, ma anche senza, con nessun gusto per la competizione, però per il fatto di trasmettere emozione. Un altro tratto scomparso della comicità è l'emozione, no? È tutto calcolo, è tutto ritmo, che ci sta tutto, per carità. Perché un po' l'esigenza è anche quella. No? Però vedo che c'è questo rapporto meccanico con la parola o con gli argomenti. Io sono convinto che se trasmetti emozione, se si avverte che anche tu te la stai giocando, ce la si gioca insieme, è molto bene. Senti, tu hai cominciato a giocartela nel 1957... Quando sei nato? Sì, lì è stato a Carate Brianzolo, se lo sono giocato, insomma. Sì. Sei quindi un brianzolo. Io abito in quel di Carate Brianza. Vicino a Milano, perché non lo sapessi. Ci sto benissimo, perché mi faccio le mie camminatelle a piedi, ma non mi sento così marchiato e forgiato dal posto. Milano ti ha dato tanto, no? Però perché i tuoi esordi sono... Sai, quando uno dice mi ha dato tanto, chissà cosa mi avrà tolto, io questo non lo so. Si ha tolto un po' a tutti. Milano toglie e dà, devo dire. Frequentavo e ho frequentato, visto appunto l'anagrafe che tu hai giustamente svelato, perché non c'è nessuno mistero. Ma per carità, no, ma anzi. Perché so che adesso ci tengono anche gli uomini. Però io mi vanto di dire che non ho una certa età, ma ho un'età certa. Perché io su sono. Quello è inconfutabile. E siamo tutti del millennio scorso, quindi. Ebbene sì. Anche tu. Anche io, quindi, sono del 1900. Sì. Esatto. E quindi cosa mi ha dato Milano? Milano mi ha permesso di respirare, come dire, queste atmosfere che io credo non ci siano più, e non lo dico da passatista, ma a me spiace tanto che non ci siano più. Da nostalgico però almeno sì. No, nostalgico no, perché non è, io non sto dipingendo tutto bello quella roba là. Io sto dicendo che ho vissuto in un periodo, quando i miei esordi sono del 76. Infatti, al Teatro Cabaret La Bullona. La Bullona, completamente frantumata, non c'è più niente di tutto, questi saranno parcheggi, non lo so. Non c'è più, ma tu hai iniziato là. Ho iniziato lì, il debutto, figurati, poi ecco lì cosa vuol dire essere un po' provinciali, no? Io che arrivavo appunto da Carate, senza nessun sacro fuoco per il teatro, io non ho mai... Non sopporto molto l'esibizione, per questo che il carico emozionale lo sento molto vivo. Cioè, non diventa un automatismo per te? C'è sempre un po' questa tensione? C'hai una luce addosso, un microfono, quindi sei visto e sentito. Sì. Beh, non è una cosa da poco. Allora, e stai rubando tempo alle persone. Storielle. Storiacce. Eccoci sempre in compagnia, io vostra, voi e della mia Roberta Giordano, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ma soprattutto è venuto a farci compagnia oggi Alberto Patrucco, attore comico, anticonformista, lui si è definito anche incoerente, insomma, come una specie di apertura, diciamo, al nuovo, però in realtà poi per chi lo conosce, per chi ha seguito i suoi monologhi, forse per quanto riguarda le sue attività, il fatto che faccia teatro, ha fatto televisione, ha fatto musica, il CD d'esordio è Chi non la pensa come noi, questo incontro con Brassens, poi hai scritto dei libri, quindi insomma ti sei piuttosto multiforme, però una coerenza di fondo c'è, perché la tua comicità, il tuo bacchettare sul costume, sulla politica in particolare, i concetti, insomma, la direzione è un po' quella. È difficile che tu cambi completamente idea su qualcosa, sì, che non ti piace. Io quando dicevo sono pronto a cambiare idea di qui a 30 secondi mi riferivo anche ma poi è ovvio che al tuo futuro, ma l'importante è non essere attaccati come con lo spirito conservatore, cioè in modo io devo preservare, come io qui un po' oscurantista, dice ma un no, po'. Dico, io sono pronto a mettermi in discussione, cioè non ti dicevo, non sono per nulla permaloso, cambio idea, mi piace. Poi è ovvio che il tratto, insomma, le corde, insomma, le cose che poi dici sono quelle che fanno parte, ti solleticano, ecco, e ti stuzzicano, ovviamente. Certo. No? E quindi certo che dei percorsi e dei tratti comuni discutibilmente ci sono. Conduttore c'è anche in Alberto Patrucco. E dicevamo, quindi l'esordio nel 1976 al Teatro Cabaret La Bullona, poi però la grossa esplosione c'è stata appunto dopo, tra gli anni 80 e anni 90. con spettacoli, cominciava la TV commerciale, il cabaret diventava anche uno spettacolo che è esploso proprio in quegli anni con Drive-In, no? E tu, quindi tu hai cominciato a portare gli spettacoli un po' in giro per l'Italia, giusto Alberto? Sì, potrei narrarti di esperienze incredibili quando si facevano le prime serate fuori. Intanto c'era tutta una gavetta che era rigorosissima, pure in quei piccoli posti che dicevamo. Secondo te è diversa da adesso? Adesso si arriva a più io credo facilmente. Che sia cambiato un po' tutto. Io credo che adesso questi nuovi comici, questi nuovi personaggi, credo che facciano gavetta in diretta televisiva o in differita su Canale 5 davanti a non so quanti milioni di telespettatori. Meglio o peggio secondo te questo modo di... Ma io, guarda, non so, non mi pongo il problema se è meglio o peggio. Certo che è diverso, è qualcosa di altro. Io non sono uno che frequenta i comici, nel senso che per quei tratti che venivano suggeriti all'epoca ci consigliavano che il comico non doveva vedere comici, era meglio perché che si dedicasse ad altro. Dici? Ma a parte che ci può essere il rischio della contaminazione, è quasi sempre in giù, ma in su. E poi perché era meglio che un'ideuzza, per quanto inutile o per quanto non fortissima, tu te la che fosse, tra tete, fosse insomma. Tua, insomma, perché solo così potevi essere più convincente. In quella scuola dove non si sono mai visti né bidelli, né docenti, né alunni, però c'era un certo rigore pur in mezzo a una pletora di simpatici cialtroni, cioè voglio dire, non è che uno se la tira alta, però insomma questo era il clima. Quindi questi i tuoi esordi, poi dopo è arrivato Zelig, poi è arrivato anche Colorado, tu hai lasciato Zelig per Colorado, anche Zelig era diverso quando ci sei approdato tu, no? Ovviamente, credo che sì. Ad oggi, Credo che sì, insomma. Io non voglio dire niente di queste cose, che a volte rilasci delle cose, nascono delle cose. Vieni proprio polemiche, cos'è Alberto? No, ma infatti io non sono per nulla polemico. No, e allora andiamo su una cosa invece innocua. Ecco, se tu dovessi dire chi ha fatto in modo che tu fossi quello che sei, i tuoi genitori. Tu hai detto che ti sei avvicinato nel tuo esordio al cabaret, al teatro, senza avere il sacro fuoco. Da dove è venuta allora questa pulsione? No, il sacro fuoco, intendo, perché io non ho nessuna vanità dell'esibizione. Devo dire che il godimento grande che provo, e me lo coccolo nel tutto mio privato, insomma, nella mia intimità, è quando credo di agguantare un'intuizione che dici, mi però, garba, insomma, che vabbè, sì, questa, sì, io tipo, pur non compiacendomi delle mie cose, però ci sono delle cose, beh, insomma, questa sì, è beh, può funzionare. E lì è un grande godimento. Quando poi, insomma, la metti sulla scena. Ah beh, è bello certo avere sentire il pubblico uno, tu capisci che quelle cose funzionano, che c'è una buona dimensione, quando dicevo il tratto emozionale legato alla rappresentazione, però sai, non essere così compiaciuti di essere lì al centro della scena. Però chi è che ti ha dato il là? Tu hai avuto, non so, dei genitori particolarmente caustici, spiritosi, un fratello, uno zio, hai assistito a qualcosa che ti ha illuminato, non so, quando eri Ma io bambino, credo, a Karate Brianza, che è successo? A Karate Brianza, figurati. No, io credo proprio... scaturire Alberto Patrucco. Ti dirò, la musica mi ha trascinato in questo percorso, poi magari ci arriviamo. Sì, è vero, dicevamo, perché che io, il tuo primo amore è stato, tu hai iniziato a suonare il pianoforte molto presto. Io ho iniziato a suonare il pianoforte molto presto e grazie al cielo ho smesso anche presto di suonare. No, perché, almeno quello, lasciamo stare. No, io ho iniziato proprio con la musica e io, per dire, ho iniziato a fare questo mestiere grazie alla musica, non grazie alla parola. È proprio spinto, e questo era un bisogno è un bisogno che questo amico di allora aveva, lui sì che aveva il sacro fuoco della rappresentazione, gli piaceva essere sul centro della scena, era un mio storico amico dell'epoca, si chiama Massimo Galimberti, e aveva bisogno di qualcuno che lo accompagnasse, siccome allora non era così di moda suonare, non è che suonassero in tanti, e lui alternava alle sue chiacchiere di parola, le tue qualche suonate. Canzone, qualche cosa, e voleva che io ci mettessi della musica o lo accompagnassi. E io così ho iniziato, trascinato da questa... Quindi un vero amico anche, tra l'altro. Ah, parte... Sicuramente, no. E tant'è che poi lui ha smesso, io sono andato avanti, lui si è andato al teatro, ad altre così, cose, insomma. Eccetera, perché ha smesso spesso per dire, insomma, perché poi quando uno è coinvolto in queste cose non smette mai, a tratti, ma non smette mai e c'è sempre dentro. Il tuo pessimismo comico? Il mio pessimismo comico nasce da me. Intanto il gioco di parole credo sia piuttosto interessante. Lungi dal pessimismo cosmico, vabbè, quello lo lasciamo Leopardi. Almeno è comico, è già sdrammatizzante di comico, per sé. Però no? Mi sembra già un ossimoro in sé. Ma sì, poi è l'idea che per quella comicità che ti dicevo, fatta di Badile e di Piccone, io poi credo che sia assolutamente conveniente essere pessimisti. Perché dici, per essere ottimisti poi c'è sempre ricredersi. No, io credo che sia una buona religione, insomma, essere pessimista. Primo, perché ci azzecchi quasi sempre. Purtroppo. E poi, se qualora dovessi non azzeccarla, dovessi sbagliare, vai incontro a una piacevole sorpresa. Senti, invece, adesso rifacciamo un salto in avanti con la tua ultima creatura, no? Questo CD, Chi non la pensa come noi, ispirato appunto a Brassens. Qui ci sono... 12 brani, 12 brani, non tradotti, mai tradotti, mai tradotti di Brassens. In italiano, sì. E come ti è venuta adesso questa voglia di scoprirlo? Allora, Brassens è il mio amore musicale di sempre, e non solo musicale. E tra le frequentazioni suggerite da noi allora virgulti della comicità o dell'ironia, come meglio si dice, ecco, ci ascoltate Brel, Brassens, Ferré, c'erano questi grandi modelli, grandi. Perché Brassens scrive in un modo che è proprio di Brassens, è il suo modo di essere gergo e poesia insieme, è il suo modo di suggerire sempre un pensiero ironico e spiazzante laddove tutto sembra... Anche un po' grottesco a volte. Assolutamente. E poi il tratto di non prendersi mai sul serio, di spaccare i giochi poetici, quindi poesia altissima e linguaggio della strada. E quindi questa è stata una circostanza e una casualità fortunata. Io, mio zio era di Quebec, io avevo uno zio di Quebec, quindi francofono, che tra la tanta musica che si ascoltava, ecco, lo vedi stimolo come proprio si ritorna anche è venuto all'origine, dalla tanta musica. Quando dicevo, io sono partito con la musica, e un certo senso del ritmo credo che aiuti la prosa, certo, comica o il dire in scena. Tra la tanta musica che si ascoltava, Brassens aveva la sua place d'honneur, aveva il suo posto. Quindi tuo zio soprattutto che ti ha fatto... Sì, sì, ma io ho conosciuto Brassens quindi quando ancora non lo traduceva nessuno, perché parliamo di quegli anni là. Quando io ho sentito Il Gorilla cantato da De André, ho colto, seppure ero piuttosto giovane, perché mi sembra sia uscito nel 68-70, una roba del genere, io avevi ho colto... Avevi anche 10 anni, quindi. Ho colto che era una traduzione, non perché fossi chissà... perché conoscevo l'originale, conoscevo Le Gorille di Brassens. Io ti dico che allora non capivo nulla di quello che lì si diceva. Però sono quelle cose che dentro di te, rigirata. Quando non capisci, ma capisci che c'è da capire, e quindi aspetti il tuo lo tempo. Lo tieni lì nel comodino, poi a un certo punto. Sì, aspetti il tuo tempo. E quindi. E poi ovviamente sono andato piuttosto a fondo nella conoscenza di Brassens, e devo dire che mi ha sostenuto e mi accompagna, tant'è che adesso è uscito questo disco con queste 12 traduzioni inedite. Sono felicissimo perché ho agganciato i miei amici della musica, no? E quindi c'è veramente una buona emozione. E poi l'idea di avere e di proporre uno spettacolo, ecco il passo indietro per farne due in avanti, che erano un po' le cose che si facevano là dentro, in quei posticelli che ricordavamo prima, diciamo, no? Prima. Opinio. Senti Alberto Patrucco, per chiudere, visto che hai detto che ci hanno spento i sogni, allora io ti metto qui questa che è la lampada di Aladino e ti chiedo di esprimere un sogno per te, un desiderio. Oh mamma, sarebbe bello evitare qualcosa di personale, perché sognarsi addosso è un po', dici, è un po' minimo, no? Cioè, mi piacerebbe che il mio disco questo ce lo auguriamo però, dato tutti, per scontato il successo del tuo disco soprattutto il mio disco grafico questo sarebbe il suo sogno. Un sogno, dici, di suggerire un sogno, ma proprio che si cambino i sogni, cioè perché... Cioè, io per esempio quando ero ragazzino sognavo di essere il centravanti della nazionale. L'altro giorno trovo il mio nipotino che mi dice: ho fatto un sogno bellissimo, ero in difesa nella Pro Vercelli. Allora ho detto, caspita, guarda i sogni come sono anche questi, sogniamo low cost, sono flessibili, elastici, sono diventati a progetto anche i sogni. Allora io dico, boh, se un sogno devo fare, voglio che si sogni bene, mi piacerebbe che tutti sognassero bene, alto. Ce lo auguriamo allora, questi sogni alti almeno, perché poi per scendere c'è sempre tempo, no? Io credo sì. Vero? Sì, sì, io credo che sì. Grazie Alberto Patrucco. No, grazie tanto a te, mi auguro di non avere, come dire, sbriciolato i tuoi numerosi ascoltatori. Ecco, non credo proprio, glielo chiederemo. Ciao Alberto. Grazie. Per cambiare in amore quel capriccio non ci sarebbe voluto granché. Ma per Venere allora ero d'impiccio, Cupido sai se ne fotte di me, Cupido sai se ne fotte di te.